qua torniamo in voce, sempre all'ascolto di Atti e Misfatti. Questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Abbiamo un collegamento con noi, come preannunciato, una compagna della cooperativa Be Free. Ciao. Ciao, ciao a tutte. Ciao, senti, tu questa sera ci vuoi, insomma, ti abbiamo chiamato per raccontare una storia, un'ennesima espulsione dal CIE di questa donna che si chiama Rita, che è una donna nigeriana che veniva dalla Grecia, se non sbaglio, che è arrivata qui ed era, insomma, era finita in mano a una tratta di schiavitù, praticamente di prostituzione. E come purtroppo capita anche a tante altre, è stata riconosciuta solamente come una clandestina, messa nel CIE e poi è stata rimpatriata. Sì, quindi è, insomma, stata una storia abbastanza. L'11 gennaio. Se tu ci vuoi raccontare un po' la sua storia, un po' più nei dettagli. Sì, noi l'abbiamo conosciuta all'interno, insomma, dello sportello per donne vittime di tratta che Be Free gestisce dentro Ponte Galeria. E il nostro lavoro consiste nel cercare di far emergere le situazioni di sfruttamento e quindi di farle uscire da Ponte Galeria per inserirle in dei programmi di protezione sociale. E così doveva appunto accadere anche per Rita. Rita c'era stata segnalata da un'associazione antitratta del Veneto, che aveva avuto con lei uno o due colloqui, e prima che si potesse concretizzare, insomma, il suo progetto di protezione sociale, è stata presa e presa per strada, insomma, mentre andava da una sua amica, e portata dentro al CIE di Ponte Galeria. Quindi ci è stata segnalata da questa associazione e noi abbiamo iniziato appunto con Rita tutto quello che compete appunto nel nostro lavoro, e abbiamo depositato il 12 dicembre una denuncia appunto contro la sfruttatrice che l'aveva costretta alla prostituzione in Grecia. Rita, insomma, aveva avuto il coraggio di scappare proprio da questa situazione ed arrivare in Italia, dove appunto aveva da subito chiesto aiuto agli enti, insomma, alle associazioni preposte. Quello, diciamo, che è successo di diverso rispetto al solito è che la polizia non ha aspettato che il giudice, il PM, il pubblico ministero che aveva preso in mano la denuncia, si esprimesse con un parere favorevole o un parere negativo rispetto al diritto di avere un permesso di soggiorno, perché, insomma, l'articolo 18 funziona così, sì, che infatti, una volta che depositi appunto una denuncia per sfruttamento, poi è il giudice, il PM, il pubblico ministero che decide di rilasciare o meno un parere favorevole. Questo per lei non è successo e in realtà è stata la prima volta dentro Ponte Galeria che appunto è successa una cosa del genere, perché, insomma, è vero, ci stanno tante deportazioni di donne anche, insomma, vittime di sfruttamento che magari non hanno avuto il coraggio, il modo, la possibilità di far emergere. Invece questo coraggio Rita l'aveva avuto e non è facile. Non è facile, tra l'altro, insomma, dicevi non anche è per tu. Niente facile, no, non è per niente facile. Diciamo che noi poi siamo riusciti a rintracciarla proprio all'arrivo all'aeroporto di Lagos tramite un'associazione, insomma, tramite Suore Eugenia Bonetti, che è una dei maggiori punti di riferimento della lotta alla tratta degli esseri umani in Italia. Siamo riusciti a farla almeno, insomma, aspettare da alcune operatrici che poi l'hanno accompagnata in un centro d'accoglienza a Lagos. Però, diciamo, questo non toglie che Rita abbia subito una violazione gravissima dei suoi diritti dalle istituzioni italiane e quindi stiamo cercando di attuare, insomma, anche a livello legale con la nostra avvocata delle azioni per chiedere di farla ritornare. Sì, adesso che succederà quindi? Voi vi state muovendo in questo senso? Secondo voi è possibile che lei ritorni? Sì, noi oltre a fare appunto una denuncia presso tutte le sedi possibili e immaginabili, nel senso che appunto abbiamo voluto rendere pubblica questa storia e parlare anche delle precise responsabilità, in questo caso insomma è stata la squadra mobile di Roma che ha, avendo ascoltato la ragazza, siccome aveva subito uno sfruttamento in Grecia, non ha ritenuto che fossero competenti le autorità italiane per il rilascio del permesso di soggiorno, cosa che invece contrasta con tutte le convenzioni internazionali che sono state redatte in questi anni e che affermano appunto che la tratta è un fenomeno transnazionale e in quanto tale deve essere contrastato, insomma. Sì, altrimenti non c'è più la possibilità di scappare da nessuna parte. Cosa? Altrimenti non c'è più la possibilità di scappare da nessuna parte. Certo. Sì, e poi comunque rischia la vita in Nigeria. Quindi il paese d'origine sempre quello è, nonostante insomma sia stata sfruttata appunto in Grecia, comunque ritornando in Nigeria comunque rischia la propria vita, appunto perché non ha finito di pagare quel famigerato debito che le donne nigeriane di solito contraggono quando qualcuno insomma le recluta e le fa venire in Italia o in altre parti d'Europa. Quindi insomma, oltre ad una denuncia all'opinione pubblica, stiamo anche cercando di agire a livello legale per chiedere insomma il suo ritorno. Spero che ci siano insomma nei prossimi mesi delle notizie positive rispetto a questa questo tentativo che facciamo, anche se appunto non è facile per niente. Sì, speriamo anche noi, infatti sicuramente continueremo a seguire la vicenda, ma tu nel caso vuoi dare un riferimento, un sito dove si può andare a leggere la storia di Rita, dove comunque le compagne e compagni all'ascolto possono anche leggere della cooperativa di Be Free? Sì, il nostro sito che è www.befreecooperativa.org. Ok, quindi insomma anche per chi vuole seguire questa storia o ascolta Martedì Femminista o viene sul sito e vediamo un po' insomma come procederà, però noi sicuramente manterremo alta l'attenzione, quindi sicuramente ci risentiremo e ti ringraziamo per questo racconto, esprimiamo ovviamente tutta la nostra solidarietà e quindi ci riaggiorniamo, speriamo tra un po' con delle buone notizie. A presto, grazie ciao. A voi, ciao. Oh, make me over.